La voce si vede. Al Salone del Libro di Torino, Radio 24 vi aspetta oggi al Padiglione 2 con le dirette di L'altra Europa, Il gastronauta, Non ci sono più le mezze stagioni, 2024. Inoltre alle 12.30, speciale La Guardiana del Faro, con Barbara Alberti. E alle 18, speciale Chiedo Asilo Live, con Cappa e Drago. Al Salone del Libro di Torino, Radio 24 è tutta da vedere e da ascoltare.